You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera abbiamo un ospite, un atleta, che è con noi per raccontarci la sua storia, che è una storia straordinaria e anche particolare. Buona serata ad Ami Fall. Buonasera a tutti, buonasera Valentina. Grazie Ami per essere con noi. So che tu ci hai portato innanzitutto un piatto. Ah sì, un ottimo piatto di mafe. E da degustare con un bel bicchiere di succo di bissap. Ami, che è cresciuta sul lago di Garda, ha portato questo piatto perché le sue origini non sono solo italiane. E poi ci racconterai anche perché ti abbiamo chiamata, qual è stata l'iniziativa che ti ha portato anche a finire sui giornali, perché tu sei una atleta, no? Ami, la tua mamma è italiana. Sì, esattamente, la mia mamma è bresciana. E il papà? Il mio papà invece era senegalese, mm-hmm. È arrivato in Italia tanti anni fa perché era arrivato negli anni 70 e è scoppiato l'amore con mia mamma a scuola, per cui in un contesto un po' diverso rispetto a quello che magari succede di questi tempi. È scoppiato l'amore e sei nata tu. E altri due fratelli. Sì, tu e i tuoi fratelli. Ed è scoppiata anche la passione che tuo padre ti ha trasferito per lo sci. Sì, diciamo che mio padre aveva una visione un po' particolare, nel senso che ha sempre voluto che i suoi figli, visto che erano comunque nati in Italia e sarebbero cresciuti in Italia così come è stato, facessero cose innanzitutto da italiani. Non ha mai però escluso il fatto di insegnarci anche l'altra parte della sua cultura. E quindi quando ero piccola è stato lui il primo a mettermi sugli sci e a portarmi in montagna e a mettere dentro di me questo seme e questa passione per la montagna e per gli sport invernali. A lui piaceva innanzitutto la neve, piaceva tantissimo, infatti ho un sacco di fotografie sue in mezzo alla neve e probabilmente appunto quel fascino per quella cosa che in Senegal non c'era, per cui che mostrava quella cosa che lui aveva trovato appunto e che in Senegal non c'era. Però a me piace tantissimo questo stridere anche dei due concetti, la neve e il Senegal, perché sono proprio la chiave di lettura che do un po' anche alla mia avventura sportiva, cercare le proprie origini passando per una strada però del tutto opposta fondamentalmente. Tu su questo contrasto hai voluto costruire il tuo futuro, la tua carriera, perché non solo sei una sciatrice, ma la tua aspirazione è quella di sciare con la Federazione di Sci Senegalese. Sì, esatto, io sono una sciatrice, sono un'atleta e ho la Federazione di Sci, facciamo una premessa che la Federazione di Sci del Senegal è ha una storia lunghissima, cioè da tanto tempo, ed è stata anche la prima federazione che ha partecipato ai giochi olimpici per un paese africano. E quindi io ho contattato la federazione qualche anno fa e mi sono offerta, nel senso, ho detto che non ero proprio la campionessa del mondo, ovviamente, però ho detto: se volete io mi offro per poter rappresentare il Senegal sugli sci. E loro mi hanno dato il benvenuto, ovviamente tante cose, cioè, la maggior parte delle cose sono a carico mio, tutta una cosa mia, la spinta, la volontà, anche i soldi, eccetera, eccetera, però loro mi hanno dato il benvenuto e mi hanno fatto sentire comunque a casa e fanno il tifo per me. Quindi tu fai parte dello nazionale di sci del Senegal? Sì, in questo momento io sono la nazionale femminile di sci del Senegal. E questo è abbastanza curioso, perché poi tu sei cittadina italiana. Sì, sì, sì, sì, sono anche cittadina, diciamo, ho doppio passaporto, quindi sono cittadina italiana, io sono nata e cresciuta in Italia, per cui fondamentalmente il mio è stato un modo per avvicinarmi alle mie origini, perché mio papà è mancato comunque quando ero piccola, e quindi alla fine non ha potuto finire quel percorso di insegnamento della cultura senegalese a me e ai miei fratelli. Mi sono trovata a un certo punto, grandicella, a voler fare, tra virgolette, i conti anche con quest'altra parte di me, perché era troppo comodo, no, considerarmi semplicemente italiana, c'era un'altra parte di me che volevo che venisse fuori, e ho cercato di farlo attraverso lo sport. E attraverso una disciplina sportiva abbastanza singolare, in effetti, per un atleta con origini in parte africane. E tu sei, hai detto, la nazionale di sci senegalese, quindi non è molto praticato come sport. Non è praticato, però, come dicevo prima, ha una bella storia. Infatti l'ultima partecipazione alle Olimpiadi comunque risale alle partecipazioni in Canada, alle Olimpiadi del Canada. Di Vancouver, no? Di Vancouver, esatto, dove un ragazzo metà austriaco, metà senegalese ha rappresentato appunto il Senegal. Però sono sempre stati uomini, quindi io ho anche questa cosa in più da quel punto di vista. Quindi anche da questo punto di vista c'hai un primato. Qual è il tuo obiettivo adesso, come insomma, portando la bandiera del Senegal, la pettorina del Senegal durante le tue discese? Ma diciamo che il mio obiettivo, ovviamente il mio sogno, e l'ho sempre descritto come tale perché comunque è molto duro e molto lunga la strada per poterci arrivare, sarebbe comunque la qualificazione a un evento olimpico, e spererei, vista l'età, di arrivare al prossimo, al 2018. In realtà il mio obiettivo comunque, le gare per la qualificazione si aprono con questo semestre, con quest'estate, e dureranno fino a dicembre 2017. E il mio obiettivo appunto è riuscire a far più gare possibile, migliorare al punto di poter raggiungere il punteggio necessario per qualificarmi. Ci fermiamo un attimo e torniamo con Indovina chi viene a cena tra pochissimo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con la nazionale del Senegal di sci. Ami, tu per realizzare il tuo sogno hai anche portato avanti un crowdfunding, no? Una raccolta di fondi. Sì, perché come dicevo prima, tutte le spese sono comunque a carico mio, per cui io lavoro, ho il mio stipendio e diciamo che la buona parte di questi introiti lavorativi vanno comunque per pagarmi trasferte, allenamenti, materiali, anche se devo ringraziare alcuni sponsor che mi forniscono una buona parte del materiale che nello sci è veramente costoso. Però l'anno scorso, vista anche come era andata un po' la stagione estiva, non c'era tanta neve e le trasferte in ghiacciaio erano veramente costose, ho detto proviamo, vediamo questa storia così particolare, mi piacerebbe anche diffonderla in giro per il mondo, vediamo se trovo dei sostenitori, e così ho fatto un crowdfunding su una piattaforma americana che mi ha permesso appunto di raccogliere qualche soldino per poter integrare appunto quello che già io metto per potermi allenare. Quanto sei riuscita a raccogliere? Qual era il tuo obiettivo? Allora, il mio obiettivo era $3,500 e ne ho raccolto circa 1000 euro. E io che sono un'ottimista sono veramente comunque contenta, perché sinceramente non mi aspettavo comunque un ritorno del genere, anche se avevo messo un obiettivo un po' più ampio, e questi fondi mi sono serviti per appunto pagarmi parte, che userò più che altro per pagarmi parte degli allenamenti quest'estate e per finanziare fare un piccolo concorso con il quale vorrei pagare delle lezioni di sci per dei bambini senegalesi che magari vivono qui vicino a dove abito io, in provincia di Brescia, Mantova, di Trento. Conosco alcune famiglie senegalesi, poi questa iniziativa cercherò di pubblicizzarla tramite i canali nei centri dove magari si trovano più spesso gli immigrati che vengono dal Senegal, piuttosto che le scuole dove fanno anche le piccole scuole coraniche, dove vanno l'oratorio, diciamo, per la loro versione dell'oratorio, dove si trovano i bambini comunque per studiare religione. Per cui la possibilità di poter fare anche questa esperienza che magari un giorno darà i suoi frutti in qualche nuovo atleta del Senegal. Quindi una scuola di sci per bambini senegalesi in Italia. Come si può fare per finanziare la tua iniziativa? Ma al momento sinceramente avevo pensato di usare appunto una parte di questi 1000 euro che avevo raccolto con l'operazione di crowdfunding, però se dovessi vedere che avrà riscontro o comunque che ci sarà qualcuno di interessato a venirmi dare una mano, sarò ben lieta di pubblicare sia sui miei social, dove sono piuttosto attiva, alcune indicazioni e anche lo svilupparsi dell'evento. Depressed society, for my health, I have to rest, I have to stop watching TV. I go outside, I walk some more to see what is next to me. And I saw you, and that I knew how a smile can give some peace. Hope you love, hope you're strong, hope you will not get it wrong. Stop your bullshit and make weak. Life is hard, but it's unique. I'm gonna need it, oh, I'm gonna use it, oh, I'm gonna need it, yeah, I'm gonna use it. Ami, raccontaci un po' della storia della tua famiglia, perché tu dicevi che attraverso lo sci hai cercato le tue radici senegalesi, una strada abbastanza singolare, no? Parrebbe. Sei andata anche in Senegal? Allora, il viaggio in Senegal è quella classica cosa che uno vuole fare tantissimo e non si creano mai le condizioni per poterle fare. Io sono una persona molto volitiva, per cui sono quasi stranita davanti al fatto che non sia ancora riuscita a prendere un aereo e andarmene in Senegal. Questa è una cosa veramente strana, perché ogni volta che abbiamo cercato di organizzarmi e partire è sempre successo qualcosa. Quindi non so, probabilmente il destino vuole che io maturi ancora qualcosa dentro di me, oppure che migliori mio Wolof, che è ancora abbastanza turistico, diciamo. Per cui quello è una delle prime cose comunque che voglio fare e spero che si realizzi nei prossimi mesi, sinceramente. Io diciamo che effettivamente questo mio abbracciare le radici senegalesi tramite lo sci è proprio frutto del fatto che, e penso che è una cosa che accada a molti ragazzi, figli, matrimoni misti, il fatto a un certo punto appunto di non voler rinunciare a nessuna delle due parti della propria famiglia, quindi cercare di approfondire il più possibile anche il legame con in questo caso il paese più lontano e meno conosciuto, anche perché appunto ho avuto poca occasione di farmi insegnare da mio padre quali fossero le usanze o la cultura senegalese. Diciamo che crescendo ho avuto modo di entrare in contatto con altre persone che venivano dal Senegal, che sono state ovviamente felicissimi di introdurmi a questo mondo che vedo ancora, che io vedo comunque con gli occhi disincantati ancora di una persona che comunque non c'è mai stata, per cui ha tutta un'aurea anche di fantasia, lo vivo molto anche nella mia testa come un po' fantastico e sinceramente non vedo l'ora di andarci proprio per unire le due parti di me fondamentalmente. Tuo padre quando è arrivato in Italia e come? Sì, era mio padre aveva la fortuna di venire da una famiglia comunque che aveva le possibilità di mandare appunto suo figlio all'estero nel periodo degli anni 60-70, che sono stati periodi un po' turbolenti anche all'interno del paese. È venuto in Italia con una borsa di studio insieme ad altri ragazzi come lui e si sono fermati sul lago di Garda appunto all'Istituto Alberto all'epoca dove avevano questa borsa di studio da spendere, diciamo, e lì appunto ha incontrato mia mamma, per cui è sicuramente una forma di integrazione un po' diversa rispetto a quella che c'è adesso, anche se lui ha avuto sempre molto chiaro il discorso di far integrare le persone e ha sempre creduto molto nello sport come strumento di integrazione, veramente tanto. Lui era un milanista sfegatato, andava a vedere le partite, tifava Italia quando l'Italia giocava, ha sempre creduto nel dialogo interreligioso, per cui era una persona molto aperta, molto, molto aperta alle novità, molto aperta agli altri, e questo l'ha trasmesso anche sui figli. Nella mia famiglia diciamo che siamo un po' abituati ai mix. Mio padre è stato accolto da mia nonna veramente a braccia aperte e è sempre stata una famiglia molto unita. Però sono sicura che le difficoltà che hanno dovuto attraversare i miei genitori in quanto coppia siano state molto, molto dure. Ma ti hanno mai raccontato qualche episodio? No, però anche solo il fatto che fossimo in un paese, perché comunque noi siamo originari di Salò sul lago di Garda, probabilmente da un lato era una novità, dall'altro sicuramente ci sarà stato qualcuno che aveva avuto qualcosa da ridire. E tu invece quando andavi a scuola, insomma, com'è stato crescere con un colore della pelle diverso in una scuola del Bresciano? Ma io non mi sono mai posta il problema, semmai sono stati gli altri in alcune occasioni, però sinceramente da piccola, a parte qualche cattiveria fra bambini, grossi problemi non li ho avuti. Ho iniziato a sentire un po' più la differenza sulla mia pelle negli ultimi anni, sinceramente, e quello mi ha fatto molto soffrire, soprattutto nel periodo in cui fondamentalmente dentro di me mi sentivo solamente italiana, per cui in una fase della mia vita in cui non mi ero ancora posta questo tra virgolette problema, questa voglia di andare a abbracciare anche la cultura di mio padre, e più che altro il fatto di farti sentire diverso, per cui non penso sia tanto solo pericolo della pelle, ma il fatto di venire magari trattato diversamente, che è una cosa che fa molto soffrire, veramente tanto. A volte io dico, prendono in giro magari per esempio Balotelli, però io lo capisco, perché lui ha un carattere di un ragazzo bresciano come tutti gli altri, e il fatto di magari a volte di essere ostracizzati o comunque trattati diversamente per il proprio colore della pelle, io capisco anche certo tipo di reazioni, anche se sono comunque sbagliate, perché ti tiri addosso semplicemente poi anche la colpa e passi dalla parte del torto, per cui sicuramente si sente, e secondo me soffri di più se non hai ancora fatto unito le due parti di te, quello fa ancora più soffrire secondo me. Feeling free. Ci sarà stato un momento di rifiuto per la tua diversità? Sicuramente, più che di rifiuto, il non concepirla, nel senso che io per tanti anni, ma per una vita intera, mi sono sentita solamente italiana, e è come, a volte è come cercare di far quadrare quei giochi dei bambini dove c'è il cubo da mettere nel buco del cubo e il cerchio da mettere nel posto del cerchio, tu invece ti trovi a cercare di mettere il cubo nel posto del cerchio, cioè tu sei convinto di quella cosa, sei proprio diretto verso quella cosa, però comunque quella cosa non quadra e quindi soffri. Ma penso che questo accada nella vita di tutti, quando uno magari ha anche solo una questione fisica piuttosto che caratteriale, cioè qualunque cosa ci faccia sentire diversi da quello che noi riteniamo di essere ci fa soffrire, e solo crescendo si ha la maturità e anche la capacità di vedere oltre e di accettare ogni aspetto di sé, e magari anziché di accettarlo con rassegnazione, di viverlo come un'opportunità in più, e per me lo è stato, e io sono veramente felice di questa cosa. Il Senegal ha una cucina molto ricca e variegata, che comprende verdura, pesce, carne, e ha sempre un ingrediente comune, il riso. Importato dai coloni francesi, il riso è quindi il cereale più diffuso che viene consumato e coltivato in tutto il paese. Una particolarità della cucina senegalese riguarda il fatto che i senegalesi consumano il riso rotto, un'usanza che viene dal periodo coloniale, durante il quale i coloni francesi consumavano solo il riso integro, ritenendolo più buono, e lasciavano alle popolazioni locali gli scarti del riso rotto. Chebouyen è il piatto nazionale del Senegal, a base di riso fatto cuocere con un po' di pomodoro. Assieme al riso viene poi servito il pesce farcito con prezzemolo ed erbe aromatiche, fatto cuocere in un sugo ricco di verdure e di legumi. Un altro piatto molto popolare è il mafé, un piatto a base di riso bianco servito con un sugo a base di burro di arachidi, carne di manzo o pollo tagliata a pezzettini e verdure. Lo yassa è un piatto ancora una volta a base di riso bianco servito invece con un sugo a base di cipolle, succo di limone e pepe, nel quale viene fatto cucinare il pesce o la carne di pollo. Infine c'è lo supecandia, un piatto di riso servito con un sugo a base di olio di palma e gombo, nel quale viene fatto cuocere del pesce tagliato a dadini. Grazie, grazie ad Amifal per essere stata con noi stasera, per averci fatto conoscere la nazionale senegalese di sci. Grazie a tutti, grazie mille e crepi il lupo. Indovina chi viene a cena, termina qui, il tempo a nostra disposizione è finito ed è finito anche per questa stagione 2015-2016. Dalla prossima settimana sentirete delle repliche del meglio di Indovina chi viene a cena andato in onda quest'anno. Noi ci risentiamo invece per le nuove puntate a settembre. Se volete scrivermi per segnalarmi delle storie o dei personaggi che possiamo prendere in considerazione, fate. Il mio indirizzo mail è vfurlanetto@radio24.it. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona estate e un buon sabato sera. Buona serata a tutti, da Valentina Furlanetto è tutto, ciao. You've got to give a little. That's the glory of